Sono le 2. Io sono le 2. Quanto manca? Ah, ok. Porca miseria. Anche perché, vabbè. Il padre di famiglia, possiamo tenerlo qua per. Dico, qualcuno là fuori ancora non si è accorto che stiamo vivendo una lunga nottata. Hanno ancora voglia di rock and roll i ragazzi fuori. È giusto. Beh, allora cosa ti dobbiamo salutare adesso? O... Beh, mettiamo un ultimo pezzo. Insomma, sì, salutiamoci prima, direi. No. Troppe emozioni. Ma io lo so che ci rivediamo. Ma assolutamente sì. Ci siamo visti ai concerti, ci vedremo. È stato un grosso piacere condividere l'onda con te, anche perché devo a te un'altra cosa. Che cosa? Un'altra prima cosa, il primo libro che ho letto dall'inizio alla fine l'hai scritto tu. DJ Power. Sui DJ, esatto. Hai cominciato bene. Sì. Che miseria. Da quello che ho capito, uno comincia un verga. Esatto. No, ho scoperto che esistono dei libri che posso leggere anch'io dall'inizio alla fine, che mi interessano. Esatto. Un DJ Power, questo me l'avevi già detto tanti anni fa, adesso me lo ricordo. Io non posso dire nient'altro che le cose che abbiamo già detto, quindi insomma. Grande dispiacere, proprio dolore e culturale sul fatto che non ci sia più una voce importante come Rock FM, è proprio sbagliato. Credo che anche dal punto di vista, volendo cinicamente ragionare dal punto di vista manageriale, è proprio sbagliato. C'è una di quelle cose che dice perché fai una roba del genere? Ma io ho consigliato, spesso volentieri in onda, a certa gente di cambiare lavoro, perché di radiofonia non ne capiscono niente. Quindi perché dobbiamo pagare noi le conseguenze di questa loro lacuna, di questa loro ignoranza? Di questa loro lacuna coi. Diciamo così. Come te l'ho buttata lì, buttata sui lacune. C'è un po' una lacuna qua. Va bene. Noi ti ringraziamo. E figurati, perché, è stato un piacere. Insomma, come tanti altri, hai dimostrato tanta disponibilità e ottime parole per noi e ci hai regalato grandi momenti. Più che altro noi ti abbiamo strappato la tua famiglia. Sì, ma adesso. Ai tuoi bimbi. Tanto in questo momento dormono. Il problema è che tra 5 ore si svegliano. Mi devo svegliare anch'io. Guarda, però vabbè. Tu un giorno potrai dire ai tuoi figli, nelle ultime ore di diretta di Rock FM, Io c'ero e faccio parte della leggenda. Beh, i miei figli, c'è stato uno dei momenti cardine, è stato quando c'è stato il momento Stairway to Heaven. Cioè, il momento in cui, quando mio figlio più grande ha avuto, metti, 6 anni, eccetera, aveva visto School of Rock, che è un film che per i bambini è fondamentale, perché cominciano a capire le cose, eccetera. Ma poi lui, e lui fa, e mi ha detto, ma questa Stairway to Heaven? Allora, aspetta, allora, vieni qua che ti spiego due cose. Ti faccio ascoltare Stairway to Heaven, te la spiego dall'inizio alla fine. E quello è un momento soddisfacente per un padre. Io sono sicuro che i tuoi figli cresceranno, hanno un ottimo maestro, cresceranno con un'ottima cultura musicale. Per il momento gli interessa solo il calcio, però. Ma è normale. Va bene, buonanotte a tutti. Grazie, e domani, tra l'altro, io ho l'onore e il piacere di aprire il concerto di Negramaro con un DJ set di 6 ore. Nel senso, però. Giusto un paio di dischi. Sì, esatto. Comincerò a mettere il primo disco alle 2 per finire prima dell'inizio di Negramaro. E all'interno di queste 6 ore ci sarà senz'altro anche un momento per questa radio. Che insomma. Probabilmente facciamo che. Non sapevo che finisse alle 6. Alle 6. La continuiamo dallo stadio di San Siro. Perfetto, ok. Tra l'altro potremmo pensare, Luca, in effetti, di fare un collegamento direttamente dalla tua postazione in console. Perché e no? Darci una sorta di staffetta ideale guarda, è una bella idea. Dipende dalle 6 cosa ci sarà, perché probabilmente sarà un gruppo che suona. Però insomma, verso quell'ora lì facciamo una roba, una staffetta ideale con lo stadio di San Siro. Tra l'altro, tra i gruppi che suoneranno i fratelli sono venuti a trovarci questo pomeriggio e sicuramente domani sfoggeranno. Speriamo, perché si sono portati via uno striscione. Hanno detto no ragazzi, con il loro fantastico accento, hanno detto no ragazzi, noi siamo con voi e domani per noi sarà un onore esporre appunto questo striscione. Magari ricordaglielo. Certo, the striscion. Fratelli, do you have the striscion? Radio. Perché magari stasera escono, fanno Baldoria, sì, giustamente, esatto. Magari domani. Questa è la lunga notte di Rock FM, c'era anche Luca De Gennaro. Buonanotte. Grazie, ciao, Luca. Ciao. See if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the unfamiliar sting. Try to kill it all away. beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still sarà Hurt dei Nine Inch Nails, la canzone con la quale ne approfittiamo per salutare anche la nostra amica Carse. Allora, dunque, ma abbiamo in questo susseguirsi di ospiti all'interno di questa ultima 24 ore, abbiamo un gradito ritorno, la Dani, welcome back. Fulmine in una tempesta di notte qua a cavalcare le onde purtroppo che si sono infrante di un sogno che era quello del rock, ed era il rock quello sentito con la passione di tutti i DJs che hanno partecipato alla creazione, proprio alla nascita di Rock FM, che come un figlio è stato cullato, svezzato e alimentato di tanta passione che è la stessa che scorre nelle vene dei rockettari. Mamma e che mia. In questo momento come me stanno piangendo e io con quel sono entrata proprio dopo una canzone che racchiude proprio tutto il pain, tutto questa sensazione di essere lacerate, che è Hurt dei Nine Inch Nails, un gruppo che io adoro e che veramente è un piacevole tributo in una radio rock poter mettere. Ma tu mi senti? Io di qua io non sento niente, non sento quelli fuori, sono isolata e in questo momento niente. Desertico, allora faccio partire una band che ha proprio il suono delle lamette proprio arrugginite trovate in mezzo a un deserto. Loro sono i Caius e questa è una splendida canzone che si chiama El Rodeo. Thank you. minchia, potenza ragazzi, ragazzi, è veramente bello, bello. Celebrare proprio questo cavallo impazzito che è il rock con voi, che siete una famiglia meravigliosa, e io per tutti gli ascoltatori e quelli che sono così, i fedelissimi che ci sono anche qui sotto. Tra l'altro Dani, tu non sai, ma hai scelto una canzone che oltre al fatto che mi piace molto, devi sapere che, lo raccontavo prima, io ho demolito le orecchie dei miei colleghi di banda, perché tutte le volte che accendo la chitarra faccio l'intro di questa canzone. Mamma mia. Poi è una goduria. Mamma mia, che pezzone, pazzesca, che pezzone. Sentirla e ballarla, infatti ho quasi il fiatone e ho la gola secca. Te la sei e ballata. E qui c'è solo birra e sto bevendo l'acqua dell'acquedotto di Milano, sono molto felice. Io sono Dani, ringrazio ancora chi sta scrivendo gli sms. Sì, io ho lavorato qua per tipo una stella cadente per un mese. La stella cadente. Sono la stella cadente Dani. Esatto. Senti, hai scelto un sacco di bei pezzi per creare un ambiente. Perché tu, queste sono le follie della notte, che se, proprio era entrando in Rock FM era un mio progetto, e mi spiace che anche questo sia uno dei futuri mancati, per colpe che non basterebbero le bestemmie. Sì, voglio essere blasfema e ribelle quanto sono. Cazzo. Ecco, vaffanculo. Ok. Liberatevi anche voi ogni tanto con qualche parola contro il potere. Mamma mia, magari. Sei fottuti i soldi, porca troia. Poi viene fuori la punk che comunque c'è in me, per chi conosce la mia storia. Vabbè, Dani, bambole di pezza. Già. Comunque, appartenente alla grande famiglia, infatti sono qui a stringervi, a fare il countdown con voi, purtroppo. Quindi è una sensazione molto dolce e amara. E ho deciso di celebrare anche una fantastica donna che è qui e resiste, ed è fantastica, che è Claudia. Infatti è uno dei messaggi che è appena arrivato, e con grande onore, perché è veramente una conduttrice fantastica. Evviva. È molto simpatica, che è una dote che si apprezzano fra donne. Infatti ho deciso proprio di scegliere pezzi di donne. Vai. E vai, e qui liberiamoci tutti, voglio sentirvi urlare nella notte, nel sogno, se state dormendo, se state seguendoci, perché questo è Rock and Roll! Canadese che si chiama Peaches, un ex insegnante che però si sa, ha dentro un fuoco del rock and roll da grandissima sbraitatrice che condivido assai. Io adoro le sbraitatrici. Ecco, sei venuta a sbraitare con me, Ariele. Buonasera. Buonasera, DJ Ariele, bentornato. Buonasera. Direttamente da Pordenone. Ho una comunicazione importante da fare, perché oltre agli ospiti che vengono qui, che vuole tanto bene alle ragazze morte. A me a una certa ora mi viene un attimo di parlare da quella parte di là. Un po' di Pordenone. Un po' del Veneto, sì. che sbornomi. Stavo dicendo, ne avrei un'altra che non si può dire. Oltre agli artisti, senti che faccio il professionale, un attimo di concerto. Bellissimo, mi sento un po'. Marzullo con te. Marzullo. Beh, l'ora è giusta, eh. Sono le 2:20 minuti primi di questa lunga diretta, 24 ore di chiusura dell'emittente radiofonica Rock FM. E l'Ariele voleva segnalarvi che oltre agli artisti che stanno passando a trovarci qui negli studi a suonare le loro chitarre, i loro strumenti, c'è un altro amico che è voluto venire a salutarci, però non è qui negli studi, è giù in strada, si chiama Bros, è un writer. Fantastico. E sta attaccando la sua performance. Quanto sono da Radio Luxembourg, ragazzi? Porca miseria. Si sta incominciando a riciclare. E quindi volevo invitare gli amici che ci sono giù ad andare a così visionare la cosa. Fantastico. Esatto. Comunque, perché Radio Luxembourg ricordi un po' Radio Pordenone. Però va benissimo. Vi ricordo che potete chiamarmi al 144 27 72 89. Con me la Claudia. Ehi, Claudia, facci vedere il tuo ministero. Ciao. Va bene, ok, quindi segnalazione fatta, anche pornografica. E intanto ha chiamato la Claudia e lei mi arriva, quindi pronta. Quindi il numero di telefono era assolutamente veritiero, quindi lo potete utilizzare. La Dani! Ciao Claudia. Bello. Che bello, siete passati adesso di qua. È veramente un piacere stare con voi, umanamente. Sento dei bassi anche. Entrare nella. Anch'io sento pum, stum, esatto. Ma mi sa che è locale qui sotto, mamma sì. Mamma mia, va bene. Incontro proprio le nostre esigenze musicali, no? No, vabbè. Ma tutto si mischia. Adesso si mischia. Facciamo vibrare un po'. Esatto. Anche facciamo noi. Vibrare i coni delle radio che ascoltano Rock FM con la playlist della nostra Dani. Esatto. Cosa ci hai preparato dopo le Peach? No, Peaches è una sola. Peaches è una che tra l'altro ha formato un gruppo fantastico, perché gioca sul Fatherfucker e Motherfucker. Uh-huh. E ha fondato un gruppo che si chiamano Peaches and the Herb, che sono gli ermafroditi. Lei gioca molto sull'identità sessuale, sì. Quindi è fantastica. Poi è una leonessa da palco, un pelo sotto l'ascella incredibile. Conserva il pelo, che per noi donne, cazzo. Cioè, l'ascella te la devi fare. No, lei Peaches è orgogliosa del pelo. Peaches adesso non stiamo scherzando, è vero. E io l'apprezzo perché, cazzo, lei è grintosa. Poi ha fatto anche il pezzo con Iggy Pop, quindi molti dell'ambiente la stimano proprio perché è una donna con le palle. Concerti con Perina e con i peli. Con le palle e con i peli. Esatto. Una donna con le doppie P. Mamma mia, questa era terribile, ragazzi. Io l'ho capita, Claudia. Sono le 2:20. No, ma io ho imparato a non ascoltare tutto quello che dice la classe, no? Grazie. Ma io do i miei errori. E adesso ci sono. Avevo previsto le Lunatics Lunatics con un pezzo Throw It Away. Even if you have it all, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without part of soul, even if you're as a soul, so without tutte le donne incazzate che sto facendo anche suonare per voi, tutte le radioascoltatrici e le rocchettare che adesso non sapranno più dove sbattere le orecchie per ascoltare della buona radio, perché ahimè stiamo celebrando un funerale che si spera sia ci sia dentro uno scherzo, mi sembra magari un sogno. Boh, vabbè, tranne dire questa metafora horror, sì, che volevo un po' figurare. Vabbè, ci diamo alla musica allora, certo, perché certo, ho ancora dell'altro da farvi ascoltare. Esatto. Adesso è una grandissima artista e insomma non ci sono parole per spiegarla, e questa è una canzone molto emozionante di PJ Harvey e si chiama Read of Me. Vero Edo, la conosci? Certo, certo. Anzi, ti dirò, prima abbiamo fatto Rock Sound Garden. Panna mi ha fatto sentire molte cose di PJ Harvey. Eri tentato, infatti. E ho conosciuto PJ Harvey, apprezzata in quegli anni, insomma. Questo primo album, poi bellissimo. Sì, il secondo, sì, è. Sì, secondo, registrato su quattro piste a casa sua, così. Sì, fantastica. Vi lascio godere PJ Harvey, in cui a un certo punto griderà: Lick my legs of desire, lick my legs, I'm on fire. Invertita, però è fantastica. Vabbè, ve la lascio godere. Emozione. E questa canzone proprio dice, si chiama insomma Rid of Me, cioè liberato di me, non vi libererete mai di Rock FM, proprio. Almeno nel infatti, profondo dell'anima. Lega te stesso a me, nessun altro, veramente. Stringetelo cari questo esatto. ricordo per questa radio mitica. Un legame viscerale. Legame viscerale con tutti anche quelli che hanno partecipato, compresa me. Che si stringe a voi come ascoltatrice e come amica e... Oddio Dani, basta. Non lo so. Sono nel momento poetico, esatto, dell'ispirazione esatto. notturna, sai, esce fuori la marzulla che c'è in me. Così. Quando ti marzullisci veramente. Alle 2.30, infatti esatto. non so ancora quanto tempo avrò per la mia mitica playlist. Guarda, almeno tre pezzi tutti. Guarda. Ah, fantastico. Quindi c'hai Miss Kitten secondo me pronta. Perché comunque è anche bello quando il rock non è semplicemente chitarra distorta, ma è anche comunione della strana tecnologia miscelata anche con la stessa passione. Questa è Miss Kitten, produttrice, DJ, musicista, perché si suona anche i suoi belli strumenti e sperimenta col suono, che è una cosa sempre bella e piacevole. E questa è bizzarra perché si chiama Mitsubishi staccato, che in realtà è Mitsubishi, e parla insomma di Cars and Girls, no, Girls in the Cars, e ve la lascio ascoltare. Miss Kitten. Suzuki, fantastica Miss Kitty. Queste sono le follie della notte, chiamate così da me, per tenervi compagnia. Non mollate, stiamo facendo la maratona seria Rock FM e ci teniamo a tenervi svegli, a ballare, a stare con noi sintonizzate, e perché no anche a proporci anche delle follie della notte. Sono sì follie un po' negromaro, direi, per stare in tema con la serata. Posso accompagnarti per le follie della notte? Le follie della notte Giulio, anche con Giulio. Mi sembra sì, appropriatissimo, un'emozione dopo l'altra. Ma sai perché? Io ero giù per strada, stavamo facendo un brindisi con un po' di ascoltatori e mi suona il telefono e vedo che è Giuliano Bene Gramaro. Giuliano! Che è già sotto, lo sento già sotto. Ci sei, Giuliano? Ehi, ma io non riesco a dormire, una ninna nanna mi serve. Ma ti sei portato via quel vino, non l'hai bevuto o non l'hai proprio presa la bottiglia? Se sto sveglio, l'ho bevuto o no? Secondo me no. Prendo le palle a quest'ora. No, per dirvi, scusate, ma mo stavo pensando, non se ne avvengo, non riesco a dormire per un cazzo, devo... al posto che scrivere una canzone, hai detto perché? Domani poi, domani. No, però domani sera la ninna nanna a Milano chi me la canta? Domani notte. La Dani. No, lascia sta Dani, va bene. Te la posso pure urlare lievemente nelle orecchie, va se bene, vuoi, Giuliano. Urlare lievemente mi piace, molto negramato. No, che il casino, sai qual è? Che domani sera, dopo San Siro, comunque accendiamo Rock FM. Che cosa esce? Tipo il cuore fermo, cos'è? Non lo so, non dipenderà da più da noi. Oppure pubblicità a manetta, tipo uno spot tipo dietro l'altro. Si aprirà una porta spazio-temporale, secondo me. Esco, si impossessa dell'etere radiofonica quel personaggio pazzesco che non so se l'avete mai visto, e poi vado a dormire da ubriaco, però non so se l'avete mai visto, è uguale a un personaggio politico che governa oggigiorno e fa la televendita tipo di immobili. L'avete mai visto? No, io no. Mai l'avete visto sulla Mediaset, è uguale. No. Parrucchino, vestito in blu, è uguale. Uh-huh. Vende immobili. Uh-huh. Ok. E spaventatevi di quell'uomo. No, okay. Via, ma spaventatevi, fra una decina d'anni ci sarà da qualche parte. Quindi non vorrei che prenda l'etere, insomma, ecco, radiofonico, no, no, scherzo. Ragazzi, mi hai molto spaventato. Sì, lo so, no, ma guardate quanto sicuramente soprattutto con l'uomo delle televendite. No, con l'uomo delle televendite avrete paura tutti. Io l'ho avuta. Comunque, con tutto il rispetto per quell'uomo, non so chi sia, sicuramente una brava persona. Domani la ninna nanna di Rock FM, chi la canta? Dovrai telefonarci. Angoscia, esatto. Totale. Facciamo così. Allora, domani notte ci telefoniamo. Sì, io sì. Chiamo Giulio. Giulio chiama voi. Insomma, ci mettiamo d'accordo. Facciamo una call conference e facciamo la radio al telefono. Dai, ok. Andata. Passiamo i numeri nostri a chiunque e tutti siamo collegati insieme. Dai, ragazzi. Mi dispiace ancora, buonanotte, volevo salutarvi, scherzare un altro po'. Grazie Giuliano, in bocca al lupo per domani. Crevi. Oh, mi dispiace ancora, veramente. Grazie davvero. Nel Salento si dice intra lucore. Intra lucore. Ciao. Ciao. Che sia una buonanotte. Ciao Giulio, ciao. Grazie a tutti. Ciao. Buonanotte Giuliano. Dato. Grazie Giuliano. Mamma mia. Dani? Giulio. Cose che... mamma mia. Lasciamoci guidare allora dalla musica. Dai, sparati una tigre, va. Mi spari una tigre, sì, va sì, bene. Sì. Allora, ma stai facendo la ragazza incazzata? Sto facendo la ragazza cattiva incazzata. Sto mettendo un po' della musica bizzarra, delle donne. Che... Quasi mi fermo qua con te, non torno giù per strada. Questa addirittura è una cover delle Pointer Sisters, un trio di colore degli anni 80, e si chiama I'm So Excited ed è riproposta dalle incazzatissime tigre, le tigre, meravigliosa, almeno a mio dire, godetevela. allegra, un po' così d'atmosfera gioiosa, perché come i migliori funerali che si rispettano c'è il party, e quindi sono contenta di averla vissuta così, di viverla ancora, vabbè, con questa sensazione un po' di rasoiata sul cuore, con grande dispiacere, però sono qui con te, quindi mi voglio godere questa serata, Giulio. Ma infatti perché... così, in Italia non siamo tanto abituati a trovarsi fra amici, parenti, per un funerale, anche poter e viverlo in questo modo in cui lo stiamo vivendo noi, perché poi non è assolutamente la musica, un funerale, poi con la musica non è facile, perché tratti delle emozioni, il rock poi ne sprigiona di intensissime, e anche tu con il tuo meraviglioso programma riuscivi proprio a calare la sensazione giusta, che per una radio è proprio il cuore, quindi è un peccato che veramente non si possa continuare così in Italia. Io sono incazzatissima a livello di questioni italiane, quindi vabbè, mi limito a essere qui felice di partecipare alla grande festa e scegliendo la playlist Happy per stare insieme a voi. Ringrazio e saluto veramente gli ascoltatori che mi hanno seguito anche nel mio mese di partecipazione alle dirette, dalle 4 alle 6 del pomeriggio, sì, e do un bacio veramente enorme a Andrew Frondesio, poi a mi ricordo ancora i nomi di tutti gli ascoltatori che scrivevano, il Bonnie, e ringrazio anche tutti quelli che adesso alle 2:45 di notte sono lì a seguirci e stanno facendosi sentire l'attaccamento che comunque si prova per questa passione, per questa radio, per le nostre vite, insomma. Il rock è vita. Il rock è vita. È vita. Rock FM è stata parte della vita di molti. Di moltissimi, penso. Anche compresa della mia. Infatti chiuderò con una canzone che mi ricordo un momento particolare ascoltando Rock FM, e non so se è il momento giusto quindi di mettere la finale, ed è una canzone che io sono stata fortunatissima, perché nel 99 ho incominciato la mia seconda vita a Milano e avevo la possibilità, io ragazza della provincia di Novara, di ascoltare una radio rock, il mio sogno proprio da immaginario. Quindi ho acceso la radio e mi sparavo le nottate in compagnia anche di Rock FM, che non aveva DJ e passava la musica così, e poi mi ascoltavo i programmi. Mi ricordo che sono rimasta flashatissima dall'uscita di questo singolo dei Nine Inch Nails che si chiama We Are In This Together, ed è una canzone che secondo me riassume il suono universale del rock e ci unisce proprio metaforicamente la mia vita al mio ricordo bellissimo di una radio, che essere toccati anche solo da una canzone e volerla risentire, voler sentire anche i DJ che ci parlano sopra o che l'hanno scelta, che l'hanno voluta e la trasmettono, perché questo è il fulcro, che Rock FM trasmetteva veramente della bellissima musica rock. E tutti, anche tu Giulio, col tuo programma meraviglioso, veramente. Poi c'era uno scambio anche con gli ascoltatori, perché sono numerosissimi e silenziosi, sono quelli che per l'Italia non hanno peso. Sì, purtroppo e così, comunque... io vi celebro con della bella musica e con un pezzo della mia vita, e in questo cuore enorme, stretto a tutti voi, a chi c'è anche dall'altra parte del vetro, in questa maratona che è lo splendido Edo, a te Giulio, a Claudia, un bacio fortissimo proprio al caro Marco Garavelli nel giorno del suo compleanno, a tutti, ad Ariel, a tutti quelli che hanno partecipato, a tutti quelli che sono venuti qua, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, a tutti quelli al di là del vetro nei corridoi di questo splendido studio, realtà, famiglia, persone, musica, tutto. Veramente un tributo sincero e affettuoso a tutti voi, a Rock FM, dalla Dani. Grazie Dani. Grazie. Alla prossima. Grazie a voi. We are in this together. Yeah. Eh sì. Sulle sonorità dei Nine Inch Nails che ci ha proposto Dani come chiusura del suo intervento, direi che in realtà mi trovo nella situazione giusta per poter introdurre un preziosissimo ospite che da qualche tempo è qui con noi a Rock FM e da qualche tempo ci fa scoprire tutto quello che c'è di misterioso nel mondo del rock. Signore e signori, Chuck Bird. Aloha. Hey. Thank you for coming, Chuck. Mancano 5 minuti alle 3 del mattino e qui è venuto il momento di Chuck Bird, perché questa è proprio l'ora esatta, l'ora precisa per poter raccontare di cose che di solito non si raccontano. Ma tu hai staccato tutte le... Niente, tu la metti lo stesso nonostante non ti abbia messo dentro il jack. È una situazione un po' bizzarra, perché Chuck Bird di solito quando fa queste cose è da solo, non c'è nessuno intorno, al limite la dolce cherie con una tazza di caffè nero bollente. Se, invece questo in questo mondo speciale della chiusura della radio c'è un mondo intorno, un sacco di gente, è un po' piacevole, ma d'altra parte mi toccava prima o poi fare una cosa in pubblico. La facciamo questa volta. La tazza di caffè nero va bene, Chuck? È un po' caldina. Ah, ok. La trovassi, però. Va bene. C'è un caos totale, ma d'altra parte bisogna adattarsi anche a questo. Ehi, Chuck, cosa ci racconti questa sera? Allora, potevo tirare fuori delle storie strappalacrime, delle storie tristissime, delle storie che potevano andare veramente a fagiolo con il momento. Invece non ho fatto. Ho voglia di raccontarvi una storia invece divertente che è accaduta nella fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, nel massimo esplosione della musica ska. Si chiamava Two Tone, questo movimento inglese che raccoglieva dei ragazzi simpatici con grande talento e con grande voglia di divertire il pubblico. Two Tone Records, che raccoglieva gruppi come Special Selector, e poi c'erano i Madness, che non erano Two Tone ma erano sicuramente all'interno di questo incredibile movimento che si chiamava Ska Revival in Inghilterra. Ebbene, i Madness fecero un album, il primo album, One Step Beyond, che fece un successo incredibile, mondiale, ben al di là delle loro aspettative. A un certo punto venne il momento per registrare il secondo album e quindi andarono in studio, registrarono le basi e le canzoni nuove e come succede normalmente per ogni gruppo, arriva il momento in cui il cantante deve mettere la propria voce sulle tracce già registrate. Suggs, che è il cantante dei Madness, era nella sua cabinetta davanti al microfono e non ce la faceva. No, non riusciva, le canzoni non uscivano bene, era triste, era svogliato, non dava quella verve necessaria perché una canzone dei Madness diventasse veramente una canzone dei Madness. A un certo punto i produttori Clive Langer e Alan Winstanley decisero di adottare un trucchettino, visto che conoscevano un po' il loro soggetto, dei No East Chicken, come si dice. A un certo punto Sachs era chiuso nella sua cabinetta e disse: devo andare in bagno. Uscì dalla cabinetta dove c'era il microfono di ripresa, andò in bagno e i produttori, sapendo appunto, conoscendo bene il carattere del cantante, presero una banconota da 10 sterline e la piegarono molto discretamente e la misero per terra, fuori dalla cabina di ripresa della voce. Suggs ritornò dal bagno e vide la banconota da 10 pounds, da 10 sterline, e molto, molto discretamente si abbassò, prese la banconota e se la mise in tasca. Da quel momento cambiò tutto, entrò in cabina di ripresa davanti a quel microfono e finalmente ritrovò la verve giusta per cantare le canzoni come lui sapeva cantare. Questi erano i Madness e questi sono i Madness a Rock FM.